Gesù in sé il segreto dell'origine, l'eterna giovinezza rappresenta un limite, e dentro quella stanza, con maniacale cura intento, vigila sul suo telaio e odio come già. Aspettando il giorno in cui si vendrà.